In questa puntata parliamo dei matti. Questo preso mi sono muto, no? Non parla, poi gli gesti. Sono lì, è puro. Insegnalo questo, fai la sapere vicino. Sono pensionato di invalidità al minimo INPS e civile 80%. Prima ero studente al Visconti, ginnasio, liceo, università, due esami per diventare avvocato, mi mancano due esami. Pensionato, lavoratore, studente lavoratore. Ho avuto paralisi 4 mesi dopo che morì il papà. Tomba di stress. Si considera un pazzo o una persona normale? Ecco, questo volevo, l'ho detto prima, alienazione da religioni e ideologie esterne, realizzato dall'arte e dalla morale interiore. Due processi, tribunale e pretura, perizia psichiatrica, capace di stare in giudizio, non pericoloso socialmente, mettetelo un po' voi chi è il vero pazzo. Senta, ma lei mi fa imparare ad altre persone i movimenti quando fa quel gioco? La domanda non è stata formulata con chiarezza, né è arrivata al mio orecchio. Ci impari a fare il lecchino? La radio è chiusa, eh? Ogni cosa... No, deve essere personale, se no diventi copione, leccaculo come la vecchia generazione. È creativa la cosa. Dalla vita, le danno... Avete e senta... Le piacciono gli spettacoli, la gente le piace. La gente si ferma a guardarlo. È una domanda assurda. Ma te pare che la gente non mi guarda? Ma guarda la persona originale. E che guarda? Le pecore passive. Quella è la disprezza. Ma lei è stato male, caculo? Di me stesso. Delle fonti autoritarie, sentimentali e razionali interiore a me, è quello che vi auspico di essere anche voi, leccaculi di voi stessi. Allora è realizzazione dell'ontologia personale. Allora fa schifo. Diventa male quando... Cosa pensi? Ha mai incontrato un pazzo lei? Ha mai incontrato un pazzo lei? Miliardi di pecore passive religiose! Non le chiedo di una pecora, le chiedo se mai avrà incontrato un pazzo! E sono miliardi questi pazzi che voi dite! Che pensate che siano... Non ci sei pazzo! No, cioè... io finisco dentro di me, non fuori di me! Entrai in questo grandissimo reparto, era molto famoso, il manicomio era considerato un po' lo spauracchio, nel senso che a tutti i pazienti degli altri reparti dicevano state buoni che altrimenti vi mandiamo il 22. E non solo ai pazienti, ma anche agli operatori, gli infermieri quando erano cattivi facevano le commissioni di disciplina perché facevano qualche mancanza sul lavoro e li mandavano per punizione a questo reparto. Hai imparato come ci si uccide a vicenda. Quindi entrai in questo reparto, era agosto, e il primo giorno di lavoro, ancora me lo ricordo molto bene, fu bruttissimo perché vidi delle scene orrende che credevo non fossero possibili in quel tempo. Sembrava un po' il manicomio come 200 anni fa, quelle cose che forse voi ogni tanto avete immaginato, delle scene bruttissime. E mi accorsi che c'era molta paura. Sembravano quasi due eserciti, gli infermieri con una suora da una parte che erano l'esercito vittorioso e poi c'era l'esercito perdente, catturato, dei prigionieri che erano i pazienti. C'era veramente bisogno di tenere legati i pazienti e di applicare queste cure tipo l'elettroshock? Che domanda! Naturalmente come scoperto, persi molti mesi e molti anni, non c'è bisogno. In quel momento, per la situazione di abbandono totale in cui per tanti anni erano stati lasciati, probabilmente non che ci fosse bisogno, ma almeno loro ritenevano, loro intendo gli infermieri, la suora, il primario di quello, ritenevano che ci fosse bisogno. Abbiamo scoperto poi che con un lavoro invece quotidiano diverso era possibile piano piano, ma senza poi metterci molto, perché tieni conto che nel giro di un anno e mezzo siamo riusciti a slegare la maggioranza dei pazienti, siamo riusciti ad aprire tutte le porte che in quel reparto erano chiuse. Per entrare, figurati, c'erano tre cancelli, dovevi oltrepassare tre cancelli che erano chiusi. Il metro per giudicare la sanità, la normalità, l'equilibrio di una persona è la misura in cui la persona pensa ed agisce secondo la propria personalità cerebrale e sentimentale, fonti d'autorità interiori.